Quindi ho approfittato del fatto che in Francia, adesso è cambiato anche qua, gli spazi culturali vengono offerti anche per le scoperte, per le novità, eccetera. In Italia invece da sempre, ma negli ultimi 30 anni anche più che mai, la canzone in particolare è delegata totalmente ai privati. Questo cosa significa? Che se una persona, un produttore, investe su qualcuno, investe per poi ricavarci qualcosa, come normale che sia, e quindi tende a usare degli acceleratori, adesso ne sono la prova i vari X Factor, insomma queste cose qui, o il Festival di Sanremo, queste cose che tendono ad accelerare, che però diventano anche delle armi a doppio taglio. La canzone è probabilmente la forma di comunicazione che più di altre si è venduta. Il mondo è pieno di canzoni con testi che non hanno nessun senso e che sono, insomma, si è disprezzata, diciamo così, si è venduta e quindi disprezzata. Mi spiace molto. Torniamo ai temi dell'album. C'è la nostalgia, c'è il ricordo, l'infanzia, ma anche la morte. Perché tanta malinconia in questi testi? Io direi che c'è un po' di malinconia, c'è anche della rabbia. Questi anni che prima definivo eufemisticamente complicati sono stati anni di poca etica e di pochissima sostanza, almeno all'apparenza, non che le persone siano improvvisamente cambiate o peggiorate, non lo credo questo. Però sono saliti agli onori delle prime pagine personaggi che non avrebbero, secondo me, dal punto di vista dell'etica, diritto di cittadinanza in nessun luogo, oppure nel loro piccolo privato casalingo, ma non certamente persone che possono avere o ricoprire, o peggio ancora, posti di potere, ruoli pubblici. Quindi tutto questo ha fatto sì che sia nata in me, ma è una rabbia abbastanza condivisa da molte persone. Come è stato possibile? Perché si è arrivati a questa cosa qui? E in questo disco ogni tanto viene fuori questa roba. Il resto, non lo so, c'è per esempio una canzone che si chiama Lasciami andare, su una cosa che è strettamente legata al tempo mio vissuto. Quando si superano i 50 anni aumenta in modo, non dico esponenziale, ma almeno aritmetico, il numero di persone che si salutano definitivamente, no? E ogni volta io mi rendo conto dell'inutilità di quell'addio definitivo. Dove guardare? Quale muro della stanza guardare? Sono venuto per salutare. Sono venuto per salutare. Perché io non lo capisco. Il tempo giusto del saluto. Un'immagine che lei utilizza spesso nelle sue canzoni è quella dell'acqua, quella del mare. Invece lei è nato tra le montagne. Come mai? Sì, però io sono nato in provincia di Cuneo, che ha come unica barriera rispetto al mare le Alpi Marittime, ed è il mare è talmente vicino che qualche volta il vento del mare supera le Alpi Marittime, che sono bassine, e ci arriva il cosiddetto marin, come si chiama in piemontese, che porta magari in una giornata di gennaio 20 gradi di colpo. Quindi noi siamo, ho sempre avuto la sensazione che noi fossimo orfani di mare, orfani perché lo sentiamo, ma è lontano e soprattutto nascosto da questa barriera di montagne. Credo di essere veramente un uomo legato al Mediterraneo, che è un mare che amo moltissimo e che, mi dispiace, sia diventato anche questi ultimi anni, sia diventato spesso tomba, mentre prima era un mare di scambio, anche accidentalmente tomba, ma adesso lo è diventato per scelte di legge, non so, penso alla legge sui respingimenti per esempio, o a quei disperati che salgono in 70 su una barca che potrebbe portarne 15. Anche i marinai sono presenti nelle sue riflessioni, tra cui quelle con Henry De Luca. Che cosa le fa pensare la tragedia della Concordia? Credo che abbia scritto bene Henry. Ho letto che ha scritto una cosa, che si sono appropriati anche del naufragio, queste grandi navi, della morte in mare, che era invece l'unica prerogativa, diciamo così, eroica della povera gente. Era la musica e la voce di Gianmaria Testa, intervistato a Parigi da Nicola Cado, seconda edizione. Questa puntata, come tutte le altre, in podcast su radio24.it. Siamo su Facebook con migliaia di adesioni, pagine, gruppo Twitter, blog, sito della radio, radio24.it, la mail controluce radio24.it. Domani 6:30, nuove storie, nuove interviste, nuove inchieste, nuovi reportage.